Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Speciale amministrative 2020. minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia e, come la nostra sigla già ricordava, è una puntata speciale, nel senso che restano i temi economici, ma chiaramente oggi declinati alla luce del risultato delle amministrative, anche perché insomma, non avremmo mai fatto uno speciale legato delle amministrative, con tutto il rispetto per la Calabria o per l'Emilia Romagna o per altre regioni, se in maniera molto palese sia l'opposizione ma in parte anche il governo non avessero legato, soprattutto la Lega, questo voto a un risultato anche di carattere nazionale, secondo molti osservatori, ma non voglio ripetere quanto viene detto questa mattina. Questo è stato anche uno degli elementi che ha portato a una grossa affluenza da parte in Emilia Romagna, perché in Calabria siamo rimasti a livelli sostanzialmente precedenti, e anche un'affluenza e un voto completamente politicizzato, come si dice, nel senso non sul governatore o governatrice, ma anche sulla tenuta del governo, il quale adesso poi ognuno giustamente dopo il voto, in questo caso amministrativo, ma con valenza che si è voluto dare nazionale, da sempre festeggia oppure diciamo tende a tirare acqua al suo mulino. Io invito tutti, l'opposizione farà le sue riflessioni, ma in questo caso parliamo del governo, a stare molto cauti, intanto perché appunto il voto è andato bene, non c'è stato diciamo il sorpasso, però faccio notare che uno dei due partiti che reggono la coalizione, dei tre partiti, non voglio offendere Italia Viva, ma parlo dei pesi più importanti, e mi riferisco ai 5 Stelle, pur avendo il doppio dei parlamentari dei PD, in questo momento si trova in grandissima difficoltà e, come alcuni a mio avviso correttamente hanno fatto notare, più che in Emilia, dove la partita era stata giocata male, in maniera confusa, e ci si aspettava un risultato debole, non così debole ma debole, il vero dato a mio avviso è in Calabria, sia rispetto alle percentuali precedenti, ma anche perché lì c'era stato un tentativo diverso e soprattutto qualcuno, qui entriamo su temi più economici, poteva aspettarsi un effetto del reddito di cittadinanza, che sappiamo essere usato, stato usato molto al sud, ed in particolare anche in Calabria, quindi ci si poteva attendere una tenuta, mettiamola così, più forte per quello che riguarda la Calabria. Così non è stato. Dicevo, comunque, un conto è festeggiare, ci mancherebbe, un conto è pensare che adesso la strada sia in discesa, anche perché oggi a Focus Economia affronteremo, proprio vista la tipologia del programma, gli appuntamenti di carattere economico che attendono il governo. C'è la giustizia, che chiaramente non è un tema strettamente economico, anche se sappiamo che la giustizia poi incide sul clima economico, però c'è il tema delle concessioni autostradali, c'è l'ex Silva, l'Alitalia, la Popolare di Bari mi sembra un tema meno complicato, diciamo così, perché c'è già bisogna fare la conversione del decreto di salvataggio, però c'è già stata una decisione. E capire all'interno di questi dossier, in cui li ho citati, non sto facendo notare, lo dico a chi mi scrive, già nessuna soddisfazione sul risultato in Emilia Romagna. Guardi, anche il tono di voce è di chi magari ha fatto la diretta questa notte, ma non sto festeggiando nulla, sto dicendo l'esatto contrario se mi fa finire il ragionamento, e cioè che questi dossier che abbiamo citato sono dossier in cui non c'è stata necessariamente un punto di caduta, un punto di condivisione tra PD e 5 Stelle. Sul dossier autostrade forse un po' di più, ma lì c'è, attenzione, Italia Viva, che ha una posizione molto diversa rispetto a quella emersa tra 5 Stelle e PD. Comunque, questo era appunto per capire se vi sarà quella che il Premier Conte, ho visto nelle dichiarazioni anche Zingaretti, ha chiesto a essere diciamo, una svolta, un'accelerazione nell'attività di governo, oppure se lo scenario che si presenta rischia di essere ancora più tattico e ancora più, diciamo, di piccolo cabotaggio, come si dice in gergo, con la conseguenza che poi, come sappiamo, con un elettorato fluido, quello che adesso può sembrare un successo, magari se non ci sono risultati dal punto di vista concreto, può trasformarsi, può essere ribaltato alla prossima tornata elettorale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Una nota anche sui mercati. Oddio, è anni che i mercati reagiscono molto poco alle elezioni politiche nazionali, figuratevi a quelle regionali, sebbene ci fosse ieri anche una folta pattuglia di giornalisti da tutte le parti del mondo, anche Al Jazeera, guardavo le notizie. Però oggi le borse sono tutte pesantemente negative, di questo parleremo come tema non, diciamo, politico, non da speciale. Pesantemente negative perché Milano perde il 2,30%, Parigi il 2,70%, Francoforte il 2,70%, Londra il 2,30%, Dow Jones meno 1,60%. Ma il motivo non si chiama certo Emilia Romagna o Calabria, il motivo si chiama coronavirus, perché sta peggiorando la situazione in Cina, come vi hanno raccontato i nostri GR24. La sensazione, che tra l'altro non aiuta nella vicenda, che il governo cinese abbia cercato finché poteva di tenere nascosta il livello e la montata dell'epidemia, e invece adesso c'è, oltre che anche il caso a Pechino, tutto il mercato cinese che rallenta, e si sta ragionando se non venga in qualche modo compromessa, non venga compromesso l'effetto positivo raggiunto dopo l'accordo tra i dazi tra USA e Cina. La reazione, ripeto, non c'è nessun titolo che si salva, ma vanno male, oddio, Italgas più 0,90, Post più 0,30, vanno male tutti gli altri. Case New Holland meno 6,70, ST Microelectronics meno 6, Tenaris meno 4,80, cioè tutti gli industriali di Ferragamo, e anche il lusso meno 4,70, Moncler meno 4,5, Pirelli meno 4%. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Rapidi sulle altre notizie, nel senso che sono 769 resti sul virus, 769 nuovi casi in Cina in 24 ore, 2.835 i contagi, il primo morto a Pechino, 8 nuovi contagiati. Poi inizia anche la rida di timori, non dico panico, ma timori. C'è un primo caso sospetto in Africa. Secondo la stampa, anche i mercati azionari e derivati cinesi restano chiusi fino a lunedì 3 febbraio, e poi la riporta l'agenzia Bloomberg citando fonti a conoscenza della decisione, che però non è stata ancora ufficializzata da alcuna autorità cinese. Già stamattina l'ALO aveva dato la Tokyo chiudendo molto molto male, meno 2%. Veniamo all'Italia. Lo spread resta stabile in area a 140 punti, quindi il BTP a 10 anni rende l'1,05%, un leggero miglioramento. I dati li sapete a memoria, comunque Bonaccini ha vinto con il 51,6% contro il 43,7% della sfidante Lucia Borgonzoni, 8 punti di vantaggio. Obiettivamente non immaginava nessuno, tutte le proiezioni erano molto più strette, 2 forse 3 punti di vantaggio di Bonaccini. E Benini, che ha preso il 3,5%, e anche qui il dato era previsto basso, ma oscillava tra il 6 e l'8%. Per quello che riguarda la Calabria, il risultato è completamente diverso, e quindi lo sapete, anche 19 seggi al centro-destra e 10 al centro sinistra. Conte sulla debacle dei 5 Stelle non causa nessuna instabilità per il Presidente del Consiglio. Non ritengo ci sia nessuna instabilità, perché come lavoravamo ieri, lavoriamo oggi, lavoreremo domani. Peraltro il movimento, anzi, dovete anche guardarle in prospettiva. Con un breve intervallo temporale, parliamo di marzo, arriverà degli stati generali che serviranno, torneranno senz'altro utili per rilanciare entusiasmo, energia all'interno del movimento. Quindi si definirà questa fase di transizione e vedrete che, come già ho avuto sempre, continuerò a avere e avrò ancora di più gli amici del movimento pronti a dare un grande contributo per quanto riguarda le riforme e tutte le misure urgenti che i cittadini attendono. E introduciamo il tema dell'agenda economica, così rispondo anche all'ascoltatore che dice: mi scusi, ma perché si occupa dei risultati politici? Beh, perché ci sono i dossier, forse aperti all'inizio del programma, dossier aperti che venivano e sono stati tutti rimandati sostanzialmente al dopo elezioni, per cui non solo quelli economici, però ecco, sono d'accordo con l'ascoltatore, basta non sentire di nuovo sarà un anno bellissimo che porta anche un po' di sfiga. E invece su questo sempre il Presidente del Consiglio che dice: adesso basta piantare bandierine, adesso bisogna fare l'agenda 2023. Sono un costruttore per definizione e mi auguro che questo progetto politico possa definirsi sempre più andando avanti nel tempo, anche in virtù di una maggior coesione, di un maggior affiatamento tra le forze di governo. Per quanto riguarda l'azione di governo specificamente, io avevo già iniziato a lavorare, come sapete, già dal periodo delle vacanze di Natale, per rilanciare l'azione di governo. Quindi non vedo l'ora nei prossimi giorni di confrontarmi con le varie forze politiche per rilanciare, per individuare le priorità, definire un chiaro cronoprogramma e per definire in dettaglio l'agenda per il 2023. Non dobbiamo più indulgere in smarcamenti, in rivendicazioni di spazi politici, non possiamo più permetterci di piantare bandierine. La gente ci chiede buone pratiche di governo e noi, tutte le forze politiche saranno giudicate a fine 2023, ci auguriamo ovviamente di completare la legislatura, per quello che avranno fatto, non per quello che hanno promesso e non hanno realizzato. E dunque iniziamo con l'agenda del governo post elezioni. Qualcuno mi dice: ma come si fa a dire che la Lega non ha vinto col 32%? Semplicemente perché poi li ricorderò, uno va a vedere i dati delle europee e delle politiche nel 2019-2018 e la Lega, l'europea, aveva preso in Emilia Romagna il 33,8% e quindi il dato di ieri della coalizione è più basso, meglio invece ha fatto rispetto alle politiche 2018 col 19 e alla regionale 2014 sempre il 19 aveva preso. Se uno guarda i raffronti con le politiche europee precedenti, spicca ancora di più il crollo dei 5 Stelle che da quando sono al governo, cioè le politiche 2018 avevano preso in Emilia Romagna il 27,5%, poi sceso all'europea al 12,9% e sceso adesso al sotto il 4%, così come in Calabria, di cui adesso parlerò, perché la Calabria è in percentuale la regione dove c'è stata la maggior richiesta del reddito di cittadinanza, 33,5 domande accolte ogni 1000 residenti. Altre regioni, l'Emilia Romagna, sono 7 domande accolte ogni 1000 residenti, il Veneto 6 domande, il Trentino 2 domande ogni 1000 residenti. Quindi potevi immaginare che avendo il tasso più alto di richieste di reddito di cittadinanza, con 65.000-66.000 nuclei percettori in valore assoluto, questo avrebbe avuto un certo effetto. Non solo non l'ha avuto, se uno guarda il dato dei 5 Stelle in Calabria, mi riferisco a variabili economiche, così l'ascoltatore è tranquillo, insomma, nel 2018 prendono il 43,4%, nel 2019 il 26,7%, e ieri, diciamo, sotto il 7, adesso vi do il dato definitivo che ho in mano, sotto il 7%. Quindi insomma, attenzione, che poi bisogna prenderli con il riferimento al periodo precedente. Dino Peso del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te Sebastiano, eccomi. Allora Dino, poi ascolteremo le dichiarazioni oggi dei sindacati, perché c'è stato un incontro tra il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e i sindacati. Poi ha detto la riforma delle pensioni era per illustrare l'ipotesi di riforma delle pensioni, ma insomma siamo ancora alle fasi preliminari, i dossier del governo, io ho segnato, al di là delle pensioni, che però mi sembra un pochino più di là da venire, e al di là della giustizia, che ripeto in parte è una variabile anche economica. Allora, martedì inizierà nelle commissioni bilancio e affari costituzionali il voto per migliaia di emendamenti del mille proroghe, tra cui c'è anche la richiesta ancora una volta di Italia Viva, e cioè di Renzi, di cancellare la revisione delle norme sulle concessioni autostradali, quelle che permetterebbero allo Stato, in caso di gestione dell'ANAS e quindi di eliminazione della concessione, di pagare 7 miliardi e non 23 miliardi, lo dico per farci capire. E poi c'è l'ex Silva, la partita è ancora aperta, bisogna siglare un preaccordo entro il 31 gennaio, c'è Alitalia e anche qui la data è il 31 maggio, la Popolare di Bari mi sembra più tranquilla. Non è un caso, Dino, che questi dossier siano tutti con scadenze abbastanza vicine, perché sappiamo che la tentazione, oltre che la tendenza nel governo, è stata di rinviare i dossier più caldi, dove non c'è un consenso dentro la maggioranza unanime, al post elezioni regionali. Sì, in effetti questi sono tutti i dossier che sono rimasti un po' in stand-by e dunque adesso si attende una chiarificazione politica, ad esempio sull'ex Ilva, ma anche sulle concessioni autostradali, e questo dovrà avvenire in tempi rapidi, ma in realtà è l'intera azione del governo che in questo mese è rimasta sostanzialmente in pausa. Se si esclude il taglio del cuneo fiscale che è stato deciso proprio qualche giorno fa, che però ha una valenza non immediata, nel senso che per ora sono state stabilite le modalità, e come sappiamo il taglio del cuneo fiscale, con la novità prevalente che ne trarranno beneficio circa 4,3 milioni di dipendenti pubblici e privati che prima erano totalmente esclusi, quindi una fascia non secondaria, che percepiranno dalla busta paga di luglio 100 euro, che insomma non è propriamente poco, e che tuttavia è una prima tranche, questa del taglio del cuneo fiscale, che avrà una sua potenza di fuoco, come dire, limitata solo nella seconda parte dell'anno. L'altro dossier che si lega strettamente al taglio del cuneo fiscale, lo ha annunciato il ministro Gualtieri nei giorni scorsi, è l'avvio del tavolo che porterà o dovrebbe portare alla riforma fiscale che si attende entro fine aprile. Ecco, riforma fiscale che vorrà dire mettere mano al sistema delle aliquote, agli scaglioni. Quindi questo è un dossier non secondario che si collega strettamente, qui già stiamo parlando sostanzialmente di metà aprile, alla definizione del nuovo documento di economia e finanza. Molto importante questo, perché già in questa sede il governo dovrà dire, o comunque far intendere, come ancora una volta dovrà far fronte alle prossime clausole di salvaguardia, che, lo ricordo, non sono scomparse, purtroppo no. Ne abbiamo altri 20 miliardi nel 2021, e quindi sempre già per evitare l'aumento dell'IVA. Per evitare l'aumento dell'IVA. E sappiamo che dentro il governo c'era chi, se non ricordo male, il ministro Gualtieri era stato più possibilista nell'idea che l'IVA potesse essere non del tutto congelata, esatto. Cioè potesse, per avere più soldi per ridurre il cuneo fiscale, non per altro, sì. E si potesse aumentare l'IVA su alcuni beni maggiormente di lusso, e quindi maggiormente da classe abbiente, se posso usare questa. Sì, esatto. E infatti sono connessi i due tavoli, perché evidentemente se il governo deciderà, dubito perché è sempre una decisione che ha una valenza politica non da poco, di far aumentare seppur leggermente l'IVA per incrementare la dote per il taglio del cuneo fiscale, è evidente che qua si tratta di una compensazione che ha a che fare col nodo delle risorse, perché è vero che la vittoria schiacciante di Bonaccini scongiura nell'immediato, al netto delle fibrillazioni all'interno dei 5 Stelle, la crisi di governo nell'immediato, ma è altresì vero che non è che per incanto vengano meno i problemi, e ad esempio, ma anche perché poi la maggioranza parlamentare è completamente diversa, questo dobbiamo ricordarlo, cioè i 5 Stelle hanno un numero di senatori e deputati che è frutto del risultato ottimo che ottennero alle politiche del 2018, quando presero penso all'Emilia Romagna il 27,5%, così continua a dare i raffronti, ma addirittura in Calabria il 43,5%. Certo. Una domanda su questo, anzi due per concludere. 5 Stelle e Italia Viva. Partiamo da Italia Viva, perché sul dossier autostrade, invece lì abbiamo visto anche il ministro De Micheli, ministro del PD, essere abbastanza in linea con l'idea che vada rivista la concessione. Adesso non abbiamo ancora capito se per alcune tratte, quelle incriminate, quelle dove ci sono stati 43 morti, dove i piloni sono venuti giù, o tutta la concessione data a Autostrade per l'Italia. Però c'è un'attività molto forte lì da parte di Italia Viva, che dice no alla revisione di quanto dovrebbe pagare lo Stato. Dall'altra parte, e concludo, sul fronte invece di altri dossier, noi abbiamo dei 5 Stelle che la pensano in maniera un po' diversa rispetto anche al PD, e penso semplicemente anche a tutto il dibattito sull'ex Ilva. Italia Viva e 5 Stelle. Allora sì, per quanto riguarda Italia Viva il nodo è immediato, perché come tu ricordavi, poiché viene nei prossimi giorni... No, scusi, però la domanda era leggermente diversa, ma Italia Viva adesso ha festeggiato anche lei ieri, però non si era presentata. La vittoria obiettivamente sembra tutta di Bonaccini e anche delle sardine. Lo stesso Zingaretti ha riconosciuto il merito delle sardine di Bonaccini, cioè nessuno neanche nel PD nazionale si è detto grazie a noi, anzi Bonaccini aveva chiesto cortesemente di non farsi vedere troppo in Emilia Romagna. Italia Viva ne esce rafforzata o indebolita? Ma allora, secondo me nell'uno nell'altro, perché Italia Viva si mantiene, secondo quello che appunto sappiamo, attorno a una percentuale di consenso che è abbastanza limitata, stiamo parlando del 3-4, massimo 5%. Il problema è individuare una strategia sui dossier più importanti. È vero che si tratta di mettere le bandierine, come spesso abbiamo detto anche qui in trasmissione, ma... il problema di fondo è che ad esempio sul nodo delle concessioni autostradali va trovata una sintesi politica, perché è del tutto evidente che quando si va a votare un emendamento è lì si capisce poi quali sono gli schieramenti e le alleanze che si determinano. Allora io non credo che la crisi di governo si possa e si debba fare sulle concessioni autostradali, anche se questo è un tema che ha una valenza anche molto identitaria. Pensiamo ai 5 Stelle, che su questo insomma hanno fatto una battaglia fin dall'inizio. Si troverà una sintesi? Probabilmente sì, non ho ancora idea quale, ma certo se si va al muro contro muro già nei prossimi giorni in votazione, questo sarà un problema. Ho sentito Conte che è abbastanza ottimista, giustamente lui fa il suo mestiere, però evidentemente questo è un problema che va risolto rapidamente. Io penso che Italia Viva, sì, sono d'accordo con te, non esca né rafforzata né indebolita, insomma non è pervenuta in questa vittoria, lo dico anche perché qualcuno mi dice ancora crede ai sondaggi. Beh, guardate che i sondaggi in queste ultime settimane non erano andati, avevano sottostimato la vittoria di Bonaccini, ma davano 2-3 punti. Per carità, su base nazionale si possono sbagliare, però attenzione che se venisse fuori il famoso Germanellum, cioè la soglia di sbarramento col proporzionale al 5%, con le proiezioni che abbiamo Italia Viva non entrerebbe in Parlamento e neanche il movimento di Calenda, no? Per cui... Sì, esatto. Poi c'è il tema che tu citavi dell'ex Ilva. Ecco, anche qui bisogna capire in che direzione si va. È anche vero che da questo punto di vista il governo avrebbe una chance, di cui non si parla molto, ma che in realtà potrebbe in qualche modo venire in soccorso e dare una ciambella per superare le diversità che ci sono a livello politico, che è quella di agganciarsi al treno, subito va fatto, al treno del Green New Deal europeo. Sì. Non a caso una delle parti che sono state citate dal ministro dell'economia Gualtieri nei giorni scorsi, che riguardano l'immediato, potrebbe essere proprio lo stanziamento di fondi, che sono a quel punto fondi green, quindi green. Devono essere totalmente indirizzati alla bonifica di quella. Ecco, questo però sono parecchi milioni che potrebbero arrivare. Da questo punto di vista credo che provare ad agganciarsi a questo treno possa essere un'utile via di compromesso, nella premessa però che poi, come spesso abbiamo detto anche qui Sebastiano, il tema fondamentale da noi è sempre uno, cioè quello di saperli spendere poi questi finanziamenti. Sì, no, anche perché il ragionamento è che questi soldi, da quello che abbiamo capito, potrebbero essere non calcolati nel esatto. deficit, e questo avrebbe un senso. Grazie anche a Dino Pesole in collegamento con noi da Roma. Dopo il meteo e la pubblicità Andiamo ad ascoltare cosa hanno dichiarato i sindacati dopo l'incontro con il ministro Catalfo e poi anche la reazione delle borse, che ripeto non c'entra nulla con il voto italiano e il voto regionale italiano, ma c'entra moltissimo con il rischio coronavirus e soprattutto secondo me anche l'incertezza e la poca affidabilità, lo dico con massimo rispetto, che dà lo Stato cinese, nel senso che ha teso a minimizzare, però costruiva ospedali, e quando il mercato vede incertezza e ha la sensazione che tu cerchi di nascondere l'entità del problema, è chiaro che la reazione non può che essere negativa. A chi mi dice ma cosa state festeggiando? Guardi, mettiamola così: se il risultato fosse stato opposto, e cioè avesse vinto la Borgonzoni con quella proprio, perché qualcuno contesta la frase di peso delle vittorie schiacciante, non so, sono 8 punti di differenza, ma se avesse vinto la Borgonzoni con 8 punti di differenza su Bonaccini, staremmo dicendo che è passata la Lega in Emilia, è crollato il muro emiliano, come diceva Salvini, c'è stato lo sfondamento, e staremmo facendo un'analisi sulla tenuta del governo nei prossimi mesi proprio alla luce di questi dossier. Siccome è accaduto l'esatto opposto, nessuno ha detto che la Lega è crollata, non sentite mai questa parola da me, ma che non c'è stato lo sfondamento lo capiscono anche i sassi. Stiamo ragionando su come questo influirà sul governo alla luce anche di un altro elemento che invito a non sottovalutare: il crollo più forte di ogni attesa dei 5 Stelle. Ripeto, in Emilia Romagna avevano preso perfino le europee del 2019 il 12, quasi il 13%, sono scesi al 3,5%. In Calabria fa ancora più impressione il dato, perché nel 2019, non nel 2018 quando presero il 43, ma nel 2019 comunque, quindi praticamente nemmeno un anno fa che si è votato a maggio, presero il 26,7%, e in questo caso invece non riescono neanche a entrare nel consiglio regionale calabrese con una quota del 7,3%. Quindi lasciamo stare il 43,5 del 2018, passare da 26,7 al 7,5 con nella regione in cui più si è fatto ricorso in percentuale al reddito di cittadinanza, secondo me è un problema sulla linea anche di politica economica dei 5 Stelle, lo deve porre, oltre che tante altre riflessioni. Comunque andiamo, non c'è nessuna macchina del fango, lo dico l'ascoltatore, contro i 5 Stelle, così come non vi sarebbe stata nessuna macchina del fango se il PD avesse avuto un brutto risultato. Si tratta solo di analizzare quello che è l'esito delle urne, se lei va bene, no? Capito? Dopodiché, se lei me lo chiede, penso che sia stata irrazionale l'intera campagna dei 5 Stelle in Emilia Romagna. La piattaforma Rousseau che dice di candidarti anche se Di Maio era contrario a portare un candidato, dopodiché a questo punto dice seguiamo la piattaforma Rousseau, su cui diciamo, per carità, ognuno segue il metodo che vuole, va bene, però poi non fai nulla per sostenere il candidato e ti dimetti 3 giorni prima. Secondo me una logica in tutto questo ho difficoltà a trovarla. Se questo secondo lei significa non fare un'analisi fattuale ma gettare fango nei 5 Stelle, vabbè, sarà così. Andiamo al meteo e pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia, speciale amministrative 2020. Dunque, allora, molti mi scrivono, guardi che i grillini hanno votato Bonaccini in Emilia Romagna, ma io non ho mica detto che questo non sia successo, però allora, mi scusi visto che mi dà del ridicolo, forse il ragionamento non è sugli elettori, gli elettori votano quello che vogliono, ci mancherebbe, invece sul partito sì. Perché se dovevi arrivare ad avere tutti i voti di 5 Stelle, la stragrande maggioranza per il PD, ti conveniva fare, visto che ci sei al governo, abbia pazienza così me la tira fuori, ti conveniva dire dare l'indicazione subito del voto al PD, non venire massacrato con un candidato che prende 3,5% e un segretario generale che si dimette 3 giorni prima del voto, diciamo abbandonando la nave, secondo molti osservatori, e quindi a questo punto almeno ti prendi la sconfitta, perché il segretario, come il capitano di una nave, e qua mi fermo, deve assumersi sia la vittoria, quindi va bene il balcone a Palazzo Chigi quando c'è il reddito di cittadinanza, va bene quando prendi, parlo sempre dell'Emilia Romagna, il 27,5 e poi anche il 13 andava bene, deve avere coraggio, o non parliamo della Calabria, di essere lì. O se no dici, guardate, meglio votare Bonaccini, perché stiamo governando col PD, quindi io parlo del movimento, non... E la smetta quell'altro, vai col fango. Ma guardi che il fango non è che lo stiamo dando noi, cioè c'è stato un voto ieri, non so se se ne è accorto, e quindi stiamo analizzando il voto, dai. Allora, sì, la domanda che invece che mi fanno ascoltare è cosa hanno votato i grillini in Calabria, visto che il PD in Calabria comunque ha ottenuto un risultato, sì, diciamo, sostanzialmente buono, perché Calibo ha preso il 30%, mentre l'ultima volta il PD aveva preso il 18%. Però ampiamente distante dalla Santelli, devo dire che in Calabria è andato molto bene Forza Italia su questo. Però adesso un attimo di pazienza. Andiamo con l'incontro, così stiamo sulla cronaca del ministro Catalfo con i sindacati. Il tema era la riforma delle pensioni, fermo restando che il governo ha fatto capire che quota 100 andrà, diciamo, alla sua scadenza naturale, quindi 3 anni previsti dal governo giallo-verde, quindi fino al 2021, il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ha detto l'incontro è positivo, la riforma darà una stabilità, verranno avviati i tavoli tecnici il prossimo 3 febbraio sulla pensione di garanzia per i giovani. Abbiamo avuto un incontro molto positivo, abbiamo già stabilito un fitto calendario di incontri, si parte dalla pensione di garanzia per i giovani e per tutti i lavoratori discontinui, si continua con la flessibilità in uscita, la pensione complementare, i pensionati e tutte le questioni che riguarda appunto la rivalutazione delle pensioni e una legge quadro, un tavolo sulla legge quadro sulla non autosufficienza. Un confronto importante che ci porterà con dei tempi già stabiliti ad avere un percorso definito che è collegato al lavoro delle commissioni sui gravosi e sulla separazione tra assistenza, della spesa tra assistenza e previdenza. Già da oggi nominerò attraverso un decreto la commissione invece di esperti che farà in modo di accompagnare questo percorso di riforma. Siamo tutti d'accordo sul fatto che non debba essere una riforma che riguardi un intervento unico e fine a se stesso, ma che dia una stabilità ai lavoratori e a coloro i quali appunto vogliono andare in pensione, quindi un percorso quantomeno decennale, quindi strutturale. Questo è quello che abbiamo stabilito e sono molto contenta di come è andato l'incontro. Credo che riusciremo in tempi brevi ad arrivare a un percorso condiviso e che possa appunto portare a una maggiore flessibilità in uscita dei lavoratori italiani. Il segretario della CGIL Landini, dopo l'incontro appunto con il ministro Catalfo, ha detto adesso... Vabbè, ha detto ovviamente Landini che il risultato era importante in Emilia-Romagna, questo e ha detto che comunque l'aumento della partecipazione al voto è positivo, vale soprattutto quasi esclusivamente per l'Emilia-Romagna, aggiungo io. Però poi la linea di Landini è questa: adesso il governo non ha più alibi, deve fare un programma di legislatura, cioè non può più continuare a dire dopo le elezioni. E però ha definito un incontro importante quello di oggi, si è avviato un confronto, una trattativa seria. Credo che questo risultato in un qualche modo sia un risultato che, pur essendo regionale, visto che molti l'hanno usato sul piano politico in senso generale, credo che a questo punto non ci sono alibi, almeno per quello che ci riguarda, affinché questi confronti che stiamo avviando con il governo abbiano il carattere di confronti non a domani mattina, ma che indichino quelle che sono le misure di cambiamento e quindi un programma di legislatura. Noi vogliamo arrivare non a qualche aggiustamento di qualche parte della legge Fornero, noi vogliamo una vera e propria revisione della legge che dia stabilità al sistema nei prossimi anni e che sia in grado, a partire dai giovani e dalle donne che sono state quelle più penalizzate in questi anni, ad avere delle risposte e un riconoscimento. Segretario della UIL Barbagallo, è importante che comunque il governo abbia aperto un tavolo con noi, detto all'uscita dall'incontro col ministro, e Il segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra ha detto: occorre stabilità però per il sistema, le nuove regole, se facciamo una riforma, devono durare almeno 10 anni, e ha chiesto di canalizzare sulla nuova riforma i risparmi che si sono avuti dal minore utilizzo, minor tiraggio di quota 100 rispetto alle previsioni, ma anche i risparmi che si sono avuti sull'ape sociale e sui lavoratori precoci rispetto sempre alle previsioni. Sul merito abbiamo riaffermato le nostre posizioni e la nostra impostazione. Intanto bisogna lavorare per un sistema di equità tra le generazioni e bisogna definire un modello che dia stabilità, almeno per il prossimo decennio, alle regole del sistema pensionistico e previdenziale. Adesso andiamo sui mercati. Qualcuno mi dice: ma perché non mette in evidenza che lo spread è calato? Sì, è calato di 10 punti, legato appunto non tanto al risultato in Emilia Romagna e in Calabria, ma al fatto che il governo ne esca rafforzato nell'alleanza, non tutti i membri dell'alleanza. Però attenzione, i mercati, ripeto, se ne commenteremo, sono andati malissimo oggi per via del coronavirus. A chi mi scrive: voi sareste giornalisti, propaganda PD sempre, comunque propaganda pro tasse medievali, propaganda pro Unione Europea, pro spread, pro massacro, partite IVA, vergogna, pro traffico. Focus Economia, speciale amministrative 2020. Dunque, i mercati, iniziamo il commento sui mercati che non c'entrano nulla, ripeto, lo spread è una cosa, i mercati con le elezioni italiane, regionali italiane, ma sul timore che, diciamola in maniera sintetica, la gestione del coronavirus da parte delle autorità cinesi, adesso sta trapelando come si sia cercato di tenere tutto sotto silenzio, non ho dubbi conoscendo la Cina, vada a vanificare, rallentando l'intera attività economica cinese, gli accordi che tutti i mercati avevano celebrato tra Cina e Stati Uniti. A chi continua a scrivere su, guardate, poi riparleremo delle elezioni dopo le 18, che sto gettando fango sui 5 Stelle, marmaldeggiando i 5 Stelle, come se avessi deciso io il voto di ieri in Calabria, in Emilia Romagna. Allora me la tirate fuori. Posso dire una cosa? Non c'è in rete, forse mi è sfuggita, ma la stavo cercando, una dichiarazione di chi è stato il segretario politico dei 5 Stelle fino a 3 giorni fa, che si chiama ministro Luigi Di Maio. Ora, ognuno faccia la riflessione che vuole, ma se tu ti dimetti 3 giorni prima e pensi che questo basti per non avere responsabilità, almeno una dichiarazione la si può fare, no? Ma dai, su. Flavia Carletti, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Dacci il tono della giornata, appunto, coronavirus. Vorrei capire quanto c'è di speculazione, cioè di scusa, quanto c'è di ragionamento vero sui fondamentali, però. Perché, per esempio, molti titoli del lusso hanno perso, perché sappiamo che lì va forte il lusso in Cina. Però, in generale, mi è sembrata una reazione molto forte tutto qua. Beh, sicuramente oggi appunto le borse hanno reagito molto male alle nuove notizie sulla diffusione. Ricordiamo, è vero, gli indici a Wall Street erano sui massimi, le borse europee comunque erano andate bene, anche se appunto con queste perdite legate proprio ai timori per il coronavirus sono tornate ai livelli di fine 2019, cioè hanno perso quello che era stato l'andamento positivo delle prime sedute dell'anno in qualche modo. Quindi c'è stato un riazzeramento quasi completamente di tutti i rialzi dall'inizio dell'anno. Quindi sicuramente c'è timore, perché comunque si teme che il coronavirus, al di là della sua diffusione, possa avere impatti sull'economia reale, e il mercato si sta interrogando su quali potranno essere veramente. Infatti oggi sono andate male comunque tutte le compagnie aeree, le società di gestione aeroportuale, le società che sono legate in Europa anche alla proprietà di catene alberghiere, sì. Quindi tutto il settore del turismo, perché il turismo cinese pesa molto in Europa. Infatti appunto, come ricordavi tu, anche il mercato del lusso, perché il periodo questo proprio del Capodanno cinese e le settimane successive sono settimane considerate cruciali. Per esempio in Francia si ricorda che tutti gli acquisti tax free dei cinesi valgono il 32% di tutte le spese, e solo il 10% viene fatto proprio nel periodo del Capodanno cinese. Sì, tra l'altro, allora, sono acquisti magari fatti in Francia ma anche di marchi italiani, uno. Due, il ragionamento analogo, vedevo dei dati di qualche giorno fa, vale anche per l'Italia, soprattutto per Milano, dove il turismo cinese è ormai diventato una fetta importante del segmento lusso, appunto tax free, non solo, addirittura c'è chi vorrebbe abbassare ulteriormente la soglia, come avviene in Francia quando scatta l'esenzione dalle tasse se sei extra Unione Europea. Quindi il ragionamento non è solo sulla Cina, inteso come paese Cina, ma è anche su tutti i milioni di turisti cinesi che vanno a comprare il lusso. Da noi Ferragamo ha perso oggi il 4,40% e Moncler il 4,20%. Restiamo su questo tema dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo chiuso il commento sui mercati, invece l'analisi più, non dei dossier economici, ma più politica, con Alberto Lioli e Paolo Mieli, così commenteremo anche la Lega, perché c'è qualcuno che mi dice: lei non sta dicendo che la Lega ha perso. Vabbè, la Lega si è fermata, più che perdere. Comunque dai, GR24. Il segnale orario vi è offerto da Samu Expo, metalmeccanica, plastica e subfornitura, 6-7-8 febbraio, Fiera di Pordenone. Dall'invio telematico degli scontrini alle novità per l'IVA del 2020, dal regime forfettario ai crediti d'imposta per le imprese che investono. Vuoi conoscere tutte le novità fiscali 2020? Segui la diretta di Telefisco, la 29esima edizione del convegno dell'Esperto Risponde. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità tributarie dell'anno. Per saperne di più, ilsole24ore.com/telefisco. Audi official partner di Telefisco 2020. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli €9,90. In farmacia e parafarmacia. Ricapitolando, questo è un momento favorevole per comprare casa. Chi mi spiega perché? Perché Saturno si è allineato con Marte? No, decisamente no. Altri? Perché i prezzi delle case sono in calo dal 2008 e i tassi dei mutui sono ai minimi storici di sempre. Precisamente. E se andiamo su mutuionline.it, possiamo confrontare i mutui di 37 banche e scegliere l'offerta migliore, risparmiando fino a 1000 euro all'anno. E il servizio di Mutui Online è gratuito. Esatto. Brava Beatrice. Mutuionline.it. Più scelta, più risparmio. Alge Collection, la vetrina di Idrocentro. Per il bagno, la cucina, il pavimento, il rivestimento, il legno, la ceramica, la pietra, il marmo, il benessere. Con prezzi chiari e facili da consultare su algecollection.it. Alge Collection, qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi. Focus Economia, speciale amministrative 2020. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Vorrei concludere l'approfondimento sui mercati e dicevamo titoli del lusso male, non solo per le vendite in Cina, ma anche perché in Francia e in Italia i marchi del lusso sono molto richiesti dai turisti cinesi, appunto come ricordava anche Flavia Carletti, addirittura in Francia il 30% delle vendite è lì attribuita, quindi non tanto il mancato potere d'acquisto, il problema è che i cinesi, Flavia, in questo momento non stanno volando, o meglio ci sono tutto un insieme di restrizioni al volo e quindi si può prevedere anche una riduzione forte del flusso turistico che andrebbe a penalizzare, ripeto, non solo Parigi e lo shopping dei cinesi a Parigi, ma anche Milano e Roma, dico due città, e il loro shopping. Flavia, io ho avuto la sensazione però che i mercati siano molto nervosi sulla vicenda del coronavirus, anche perché dalla Cina, tanto per cambiare, non è arrivata nessuna trasparenza. Cioè, siamo andati avanti a dire 2 o 3 casi, poi si è scoperto che stavano costruendo un ospedale per accogliere centinaia di pazienti, poi hanno blindato la città e poi i casi, c'è stato il primo morto a Pechino. Oggi forse anche questa poca trasparenza peggiora la percezione? Beh, probabilmente sì, il fatto che comunque ci sia stata un po' forse un'escalation troppo rapida rispetto a quello che erano all'inizio, il fatto che non destasse alcuna preoccupazione, tanto che anche la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità aveva detto no, rischio è moderato a livello internazionale, invece oggi ha fatto marcia indietro su questa sua valutazione e anzi ha cambiato il grado di rischio a livello internazionale, ha corretto la sua valutazione e ha portato il rischio internazionale a elevato, anche se per esempio dagli Stati Uniti invece dicono che per loro non sarebbe non diciamo il rischio di contagio diciamo nel continente americano non sarebbe così alto. Adesso bisognerà vedere, perché appunto c'è stato, come ricordato, questo primo caso a Pechino, quindi fuori da quello che era l'area cinese un po' delimitata dalle autorità cinesi, in cui si sono limitati i collegamenti, c'è stata questa sorta appunto di blocco di tutti i trasporti, e quindi il fatto che appunto il virus ha già, come nei giorni scorsi, comunque superato le barriere del paese, in più adesso è arrivato a una città grande come Pechino, e comunque la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha corretto il tiro e ha detto che a livello internazionale comunque la situazione è più grave di quello che aveva stimato. Senti, Case New Holland invece, cambiando discorso, non perde per il virus cinese, però perde 7%. Devo dire anche Steamark Electronics perde il 5,70%, Tenaris il 5%, Pirelli il 4,60%, di Ferragamo e Moncler abbiamo già detto, Prismian, l'ex Pirelli Cavi meno 4,40%. CNH e sui titoli industriali c'è invece ancora il tema dei possibili dazi prospettati da Trump verso l'Europa? Sì, esattamente, appunto CNH Industrial proprio sembra rientrata quasi in una tempesta perfetta, perché da una parte non è legata direttamente al coronavirus, però c'è il timore che la diffusione del coronavirus possa rallentare l'economia cinese. L'agricoltura americana, dopo l'accordo del 15 gennaio, si aspettava un aumento degli ordinativi di prodotti agricoli statunitensi da parte della Cina. Questa ripresa non c'è stata e ora si teme che con un possibile rallentamento dell'economia cinese questa ripresa degli ordini possa avere un ulteriore rallentamento. E in più, appunto, legato proprio a questa cosa dei dazi, l'8 febbraio entreranno questi nuovi dazi, un ulteriore 25% sull'acciaio e un ulteriore 10% sull'alluminio, e tra i prodotti che saranno colpiti ci sono tutta una serie di derivati di acciaio e di alluminio, tra cui anche una serie di componenti che servono per il settore dei trasporti e in particolare per i trattori, visto che CNH Industrial produce trattori, è uno dei, diciamo, forse sì, questo è il ragionamento che viene fatto sul titolo, certo. Esatto. Allora, Italgas, bene, c'è un report, è la migliore, più 1%, Poste ancora beneficio del piano industriale presentato a Londra venerdì scorso. Andando sui migliori e peggiori in assoluto, Acotec Group più 11,25, Confinvest più 11,15 è più l'orario, più 11,15%, Confinvest più 9,25%, Titanet più 8,50%, fronte opposto Edes meno 17%, subisce l'incertezza sui tempi dell'aumento di capitale, risanamento meno 9,80%, EMS meno 9%, Agatos meno 8%. Grazie anche a Flavia Carletti, Radio Corre sulle 24 ore. Adesso, dopo aver analizzato in apertura con Dino Pesaro i dossier che restano aperti, caldi e delicati per il governo, perché ripeto, non vorrei che adesso si pensasse che il governo è tutto in discesa, per due motivi: uno, perché la discesa non la vede nessuno; due, perché uno dei due partiti, che è quello più forte in Parlamento, i 5 Stelle, esce massacrato da queste elezioni. Però andiamo a ragionare sulla parte politica. Prendo lo spunto da un ascoltatore, dice: ma perché dite che la Lega ha perso? Ha perso solo l'1% rispetto alla precedente consultazione. Sì, come raffronto, ma bisogna ricordare che cosa aveva, qual era la posta in gioco messa da Salvini, cioè sfondare in Emilia Romagna per andare poi a suonare il campanello, come ha detto, al governo nazionale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, due dichiarazioni vorrei far sentire. Una è quella di Bonaccini, che dice sopra il 50% non ci credeva nessuno, e poi ha aggiunto: adesso questa regione ha dimostrato che se vuoi suonare i campanelli non vieni qui, li suoni a casa tua. Comunque, Bonaccini che ha detto sopra il 50% non ci credeva nessuno. E perché, se mi posso prendere un merito, io non mi sono mai fermato un solo minuto a dover demoralizzarmi perché era andata a votare poca gente. Tutti mi dicevano è una vittoria più che dimezzata. No, era una vittoria anche quella in quelle condizioni. Ci si è riflettuto troppo poco sul valore di quella vittoria. In altri casi, quando succedono quello che successe qui, chi governa va a casa. Ma il risultato più straordinario è che, oltre ad aver quasi raddoppiato la partecipazione, appena sotto il 70%, è che ho vinto con una percentuale superiore alla percentuale dell'altra volta, quando tutti mi dicevano tanto non c'è partita. E quindi davvero un risultato bellissimo, perché è un risultato strapieno, che prende un numero rilevantissimo, sopra il 50% non ci credeva praticamente nessuno, e perché la partecipazione dà un valore ancora più grande a questo risultato. E appunto la battuta sui campanelli riferita a Salvini, il quale ha ripreso invece, ha detto: rifarei tutto, anche il citofono, il radiotelefono, il grammofono. Quando si gioca si può vincere o si può perdere. Per fortuna ogni tanto perdiamo. Sai che noia. 9 elezioni regionali, ne abbiamo vinte 8. Rifarei tutto, assolutamente. Ma anche il citofono, il radiotelefono, il magnetofono e il grammofono. E poi invece Zingaretti, dato del PD straordinario, malgrado le scissioni, e ha detto un immenso grazie alle sardine, ha perso Salvini, il governo ne esce rafforzato. I 5 Stelle, dopo che Zingaretti ha detto il travaglio dei 5 Stelle è sotto gli occhi di tutti, Crimi, il capo reggente, ha detto non ci arrendiamo, stiamo uniti, il governo va avanti, 5 Stelle lavora pancia a terra. Allora, la prima cosa che noto, poi Conte che dice Salvini ne esce come grande sconfitto, però e poi ha detto al citofono indegno e oscurantista, riferito a Salvini. Però vorrei ringraziare da un lato Paolo Mieli, che è stato direttore per De Corriere della Sera, editorialista, ed è ospite 24 mattina come editorialista con Simone Spezia. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. E grazie anche al vice direttore, nonché commentatore di politica, anche per questi microfoni, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Poi arriviamo ai campanelli e a Salvini. Però posso dire una cosa, così mi becco subito. A me quello che fa veramente strano è non aver visto nessuna dichiarazione, neanche in agenzia, in voce non siamo riusciti a trovare neanche Crimi, ma in agenzia, di chi fino a 4 giorni fa, e per anni aveva retto i 5 Stelle, cioè l'ex segretario Di Maio. Lo dico perché Di Maio giustamente si prese il merito della vittoria incredibile del 2018, in Emilia Romagna andarono a 27,5%, in Calabria a 43%, comunque insomma restò all'Europeo 2019 al 13% in Emilia i 5 Stelle e al 26,7%. Ora voglio dire, non puoi, siccome ti sei dimesso 3 giorni prima, essere silenzioso, visto che hai guidato i 5. Secondo me, anche la sconfitta, uno deve metterci la faccia. Sono troppo, diciamo così, teorico e lezioso, Paolo Mieli? Guarda, io penso che lui si sia dimesso 3 giorni prima proprio per non dover pronunciare le parole che tu auspicheresti, nel senso che questa sconfitta, anche in queste proporzioni del Movimento 5 Stelle, era ampiamente prevista, e si sa che dentro il Movimento 5 Stelle tutti, a cominciare da Grillo, avrebbero preferito che Di Maio si dimettesse dopo, a metà strada tra queste elezioni e il giorno in cui si verranno convocate le assise per decidere il nuovo assetto del Movimento, e invece si è ritenuto di farle in modo così solenne 3 giorni prima, chiaramente era per non voler mettere la faccia su queste elezioni. Secondo me sarebbe stato comunque più elegante se lui le avesse fatte, ma mancano ancora alcune ore alla mezzanotte e vale tutto il giorno precedente. Se le farà stasera, magari le farà stasera tardi, vale, se no avrà dimostrato, avrà sottolineato che si è dimesso proprio per non dover parlare. Alberto Iori, su questa linea, poi passiamo alla Lega e a quello che mi pongono gli ascoltatori come te, ma perché dite che ha perso? Accetto la domanda. Facevamo notare in apertura che, toccando i temi economici, la Calabria, perché secondo me il dato peggiore per i 5 Stelle è la Calabria, perché in Emilia Romagna fin dall'inizio disse che non c'era partito, non ci sono mai impegnati, però in Calabria dal passare dal 26,7% del maggio 2019, lasciamo stare il 43% del marzo 2018, a meno del 7, adesso riprendo il dato e non entro neanche in consiglio, è un disastro. Nella regione che in percentuale ha avuto più domande accolte per il reddito di cittadinanza, 33 4,4 domande ogni 1000 residenti. Pensate che in Emilia Romagna erano 7, sono state 7, in Veneto 6 domande ogni 1000, in Trentino 2 domande, quasi 3 domande ogni 1000, con 65.400 nuclei percettori, che sono 65.400 famiglie. Per cui questo è anche un fallimento del principale elemento di politica economica dei 5 Stelle, che era stato il reddito di cittadinanza. Assolutamente sì, è stata una debacle clamorosa, appunto siamo al 7 qualcosa, non riesce a superare la soglia dell'8, quindi non avranno consiglieri regionali in Calabria. Ripeto, partivano dal 43%, evidentemente. È stata, ma anche dal 27%, dal 27% dell'Europeo. Okay. Sì, il problema del reddito di cittadinanza dimostra anche, come posso dire, una certa qual maturità in verità dell'elettorato, nel senso che se fai quelle operazioni immaginando che ti compri il consenso molto volgarmente, poi è anche giusto che ci sia un contraccolpo da parte di chi il consenso dovrebbe dartelo, perché insomma mi sembra un'operazione talmente banale, talmente primitiva nel tentativo di creare una base elettorale attraverso una mancia, che effettivamente è anche giusto immaginare che poi quella mancia non possa andare del tutto in porto. Quanto ai numeri invece dell'Emilia, l'abbiamo visto, lo sapevano. Io trovo che Di Maio appunto conoscesse perfettamente quali erano le crepe dell'edificio e quindi è uscito prima che crollasse, mi sembra evidente. Peraltro c'è un ulteriore elemento: Di Maio non avrebbe voluto correre in Emilia Romagna e ha dovuto cedere alle pressioni della democrazia diretta, che piaceva tanto all'organizzazione interna dei 5 Stelle, e quindi anche questo ha messo in crisi sostanzialmente un modello di governance di un partito che doveva essere la novità, peraltro, per tentare di portare il nostro paese dalla democrazia parlamentare rappresentativa magari alla democrazia diretta dei click e dei referendum. Ecco, è crollato un po' tutto. Sì, non è oggetto di questa puntata, però molti hanno fatto notare che la campagna in Emilia Romagna è stata la vittoria della politica tradizionale, cioè della piazza, del palco, che sia il palco di Salvini, il palco delle sardine, non me ne frega nulla in questo momento. Ma in chi pensava che tutta la politica potesse ormai essere diretta dai social, dalla bestia e quant'altro, no, è tornata la politica di una volta, la politica del porta a porta, ripeto, dei mercati, delle piazze battute da Salvini, dei mercati, delle piazze battute dalla Bonaccini. Restate con noi perché poi vorrei parlare di Lega e PD rapidamente. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia, speciale amministrative 2020. 18:25. Dunque Paolo Mieli, poi in rapida sequenza Alberto Orioli. Due commenti ancora. La Lega, molti mi dicono, guarda che la Lega non ha perso, non è crollata. È vero, ha avuto una battuta d'arresto, secondo me, Paolo e poi Alberto. È venuto meno, invece è fallito il progetto di Salvini di personalizzare su di sé tutta la campagna elettorale, ignorando la debolezza probabilmente a questo punto della Borgonzoni. E poi un commento sul PD, ne esce rafforzato, vorrei capire però Paolo anche Italia Viva. Prego, Mieli e poi Orioli. Allora, la Lega ha perso una scommessa più ampia, più ambiziosa di quella che sarebbe stata per la vittoria della Borgonzoni. Perché con questa spallata avrebbe quasi certamente ottenuto il fallimento della legislatura, le elezioni anticipate, avrebbe mandato a monte la costruzione che i suoi avversari avevano messo in piedi da agosto ad oggi, quella del governo Conte bis. Dopodiché attenzione per gli avversari della Lega, che mentre la Lega è il cardine di un centrodestra ben in piedi, molto forte, che vince quasi dappertutto, ecco, da oggi dovremmo dire quasi dappertutto, ma non è certo un avversario friabile, insomma non è detto, ci saranno tra qualche mese, a fine maggio, le elezioni in altre sei regioni, e vediamo, insomma, vediamo in queste regioni. Tutti danno la Lega vincente addirittura in 5 regioni su 6, con la sesta la Toscana in bilico. Insomma, no, ma infatti sono d'accordo con te. Scusa, in una battuta, perché purtroppo ho pochi minuti, ma invece il rapporto tra PD e Renzi, perché Zingaretti abbiamo vinto e rafforzato il voto nonostante le scissioni. Come ne esce Italia Viva, secondo te? Paolo? Italia Viva ne esce... insomma... ha dei motivi di autocompiacimento, nel senso che Bonaccini è stato un leader renziano, fosse rimasto dentro il PD, Renzi avrebbe potuto vantare la vicinanza con Bonaccini, si è candidato, è stato a un certo momento messo in discussione nell'autunno scorso, si diceva che forse non si doveva presentare e fu un intervento di Renzi a essere decisivo per farlo presentare, e poi comunque la partita, inutile andare, questo è per quelli che sono ossessionati da Renzi, la partita di Renzi si giocherà in Toscana, dove per la prima volta Renzi si presenterà con liste sue, quindi abbiamo ancora da pazientare qualche mese e lì potremmo fare una trarre conclusioni più sono d'accordo certe. Con te. Quanto al governo Conte, sì, è vero che sarebbe stato tramertito da un'eventuale sconfitta di Bonaccini, però anche lì il governo Conte durerà se saprà governare e se saprà fare le cose e arrivare e non impantanarsi in ogni decisione che prende, se no c'è sempre, aleggia sempre il fantasma che senza andare a elezioni anticipate il governo Conte possa essere sostituito da un altro governo tecnico del presidente, diciamo così. Alberto Rioli, un minuto secco per commentare Lega e diciamo il centro-sinistra, per essere più generici. Ma guarda, Lega ha perso sicuramente Salvini, perché ha trasformato questo voto in un referendum su se stesso e l'ha perso, ha giocato da pokerista, ha tentato l'all-in e non gli è andata bene. Però se guardi i numeri, PD ha preso il 34, la Lega il 31. Stiamo parlando dell'Emilia Romagna, la Stalingrado d'Italia, dire la roccaforte vera del centro-sinistra. Insomma, ha messo un piede nella porta, diciamo la verità, anche per un percorso futuro. E io penso che sbaglierebbe il centro-sinistra a non farsi carico di alcuni dei temi che sono il cuore dell'offerta politica di Salvini, per coniugarli con modalità da centro-sinistra. Diciamo. Questo secondo me è la prima cosa. L'altra, sempre rispetto alla Lega, viene dalla Calabria, perché c'è un ricentraggio dei rapporti interni al centro-destra, perché comunque hai Forza Italia che è al 12 e qualcosa e la Lega è più o meno uguale. Questo elemento calabrese rilancia un po' Forza Italia all'interno della coalizione, che funziona se vuoi vincere, quindi crea un ulteriore problema a Salvini. Ti do 20 secondi, non è par condicio chiaramente per centro-sinistra e Italia Viva. Beh, centrosinistra indubbiamente ci sarà anche lì una rimessa a punto dei rapporti di forza interni al governo Conte tra PD e 5 Stelle, mi sembra evidente, con una piccola appendice, che però qualunque provvedimento che questa nuova configurazione dei rapporti di forza venisse portata al Parlamento, dovrebbe fare i conti con la pattuglia dei 300 parlamentari che ha comunque 5 Stelle. Perché... questa cosa è un po' contraddittoria, non è banale, perché poi i temi sono fondamentali: riforma della giustizia, rapporto autostrade, stato mercato. Guarda, secondo me io dove si incunerà Renzi, lasciami dire, perché Renzi le lancerà la posta, perché per adesso non ha giocato. Ti dico già dove si incunerà, secondo me, poi vedremo, si incunerà sulla vicenda autostrada che martedì, evidente, perché l'Italia Viva e sulla riforma della giustizia. E sulla riforma della giustizia non è economico, lì ha chiesto chiaramente di rivedere la revisione delle penalità in caso di revoca delle concessioni. Grazie a Paolo Mieli, grazie a Alberto Rioli, veramente tutto. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.